Allora, appunto, questa prossima Mishnah, la seconda Mishnah sulla pagina 3a, Daf Gimel Amud Aleph nella Gemara di Makot, cita un altro caso, o ci presenta un altro caso, in cui è difficile applicare la regola della Hazama, Kasher Zamam, di dare ai testimoni falsi la stessa pena che avrebbero fatto fare al soggetto della loro testimonianza. Qual è questo caso? Vediamo il testo della Mishnah. Qui parliamo di cose, di questioni monetarie, di un prestito nello specifico. Me'idin anu, i testimoni vengono e dicono, noi testimoniamo, be'ish peloni, riguardo tale persona, she'u chayav la chavero, elef zuz, che lui ha un debito con un'altra persona di un valore di 1000 zuz. E il contratto richiede almenat litenan lo mikan ve acheloshim yom. Il contratto richiede che questi 1000 zuz siano ripagati dal momento del prestito entro 30 giorni. Cosa dice la persona della quale testimoniano? Vehu omer, lui dice, no, non è vero. Non che non ho il prestito. Sì, l'ho preso il prestito, però non è vero che devo restituire entro 30 giorni. Vehu omer, vediamo il testo. Mikan ve'ad eser shanim. Io devo restituire, era entro 10 anni. Una grande differenza restituire un prestito, 1 milione di euro, entro 30 giorni, entro 10 anni ha preso il mutuo, no? Allora, per dire, se la loro testimonianza fosse vera, lui dovrebbe entro 30 giorni pagare. Una cosa che lui pensava di dover pagare entro 10 anni. Se adesso viene fuori che la loro testimonianza non è vera, sono zomemin. Arrivano due altri e dicono, voi eravate con noi, ma cosa state dicendo? Siete falsi. Che punizione dobbiamo dare a questi due? Non è che puoi dire si sono inventati una storia. È vero che lui deve questi soldi. Allora come si quantifica il danno? Perché lui i mille li dovrà comunque restituire. È solo una questione di differenza di tempo, ma non di differenza sul fatto stesso. Come si quantifica il danno che loro avrebbero fatto fare a lui, se lui subire a lui, se lui avesse dovuto restituire subito entro 30 giorni i soldi per causa della loro testimonianza falsa? Allora la Mishnah dice così. Omdin, bisogna fare una stima, il Bet Din deve fare una stima, con esperti o il Bet Din stesso, eccetera, devono fare una stima. Kama Adam Rozelliten, quanto vorrebbe pagare una persona? Viyubi Ado Elef Zuz, per avere in mano 1000 zuz, questa stessa somma. Beinotnan mi kanva chloshim yom, beinotnan mi kanva deser shanim. Quanto saresti tu disposto a pagare per avere il prestito da restituire entro 30 giorni? Oppure se paghi qualcosa in più potrai elargire, allungare il prestito per 10 anni. Questo pagamento che tu faresti per poter avere l'agevolazione e pagare entro 10 anni invece di 30 giorni è il danno, e questo è il modo di quantificare il danno che loro avrebbero fatto subire a te, e quindi che i testimoni devono pagare come multa questa somma qui, teorica. Hanno fatto interessi legali? Perché non avete c'è fatto la stessa sì, domanda? Non c'è interesse, praticamente. Aspetta, aspetta. Allora la Mishnah ci ha detto come bisognerebbe fare questa stima. Ora sembra che questo è ribit. Se fosse così, se io pago, il prestito è 1000 zuz. No, ma non מדברים על ההלוואה עצמה. Il prestito stesso, a kesef של ההלוואה עצמה, i soldi stessi, lui deve ridare. Zeo צריך להחזיר. La domanda è, se devo ridare, se io ho fatto un prestito per 10 anni, e adesso mi dici, no, 10 anni non va bene, 30 giorni subito mi devi ridare. Dico, per favore, ti pago qualcosa, ma tienilo per 10 anni. Quanto paghi? Questo devono pagare gli edim. Ora voi avete fatto la domanda giustamente, è vietato dare interessi, è come ribite, è come che tu paghi qualcosa che è volto al prestito che hai fatto, che è vietato tra ebrei prendere un prestito e pagarci interessi sopra. Allora, questo però, qui non stiamo parlando che lui, il debitore, deve pagare al creditore un interesse. No, stiamo pagando di una stima che chi deve pagare? I testimoni falsi. Loro non c'entrano niente col prestito, mica pagano interessi a qualcuno, non hanno preso niente in prestito. Loro sono puniti che devono pagare una somma, che la stima di questa somma la facciamo in questa maniera. Ma non che qui devono scambiare da una tasca all'altra degli interessi, assolutamente. Ok? È un riferimento. È un riferimento per come fare la stima. Sì? Io mi ricordo che se tu avevi un problema di tipo questo, tu davi tutto quanto al rabbinato, il rabbinato chiedeva un 10% sulla stima, quindi i falsi testimoni secondo me devono pagare un 10% della cifra dei 1000. Ora vediamo anche questo, ora vediamo anche se c'entra il bed din, il rabbinato tra virgolette, e come può rientrare, questo lo vedremo in un secondo nella Gemara, in un contesto poco diverso ma molto simile a quello che dici tu. Allora questa è la regola che abbiamo visto nella Mishnah. Quanto la persona avrebbe voluto pagare per avere il privilegio, diciamo così, per posticipare questo prestito da 30 giorni a 10 anni, questa teorica somma qui sarebbe la punizione che devono pagare gli Edim Zomemin, che avrebbero fatto pagare a lui entro 30, invece di, come era stipulato nel contratto, 10 anni. Ok? C'è tra i Rishonim, tra i maestri commentatori, anche un'opinione diversa sull'interpretazione di come si fa questa stima. Quello che abbiamo detto noi è quello più semplice, che è indicato dai Rishonim, da Rashi, da Ramban, e c'è anche un'altra opinione che dice forse bisogna dedurre quanto il creditore sarebbe pronto a rinunciare per poter averlo entro 30 giorni invece di entro 10 anni. Quello che diceva Moshe, Ritva, Omer, che si fa la stima, si guarda a Malvè, il creditore, quello che ha dato i soldi, quanto meno lui prenderebbe se lo prende subito invece di prendere entro 10 anni. Aval Ramban no maskim, ze lo apshat apashut. La maggior parte dei mesi non sono d'accordo con questa stima qui. Comunque, in ogni caso, in questa maniera si quantifica la differenza per quanto i testimoni falsi Zomemin dovranno pagare come punizione, come multa, diciamo così. Ora, la Gemara dice la seguente cosa. Quando la Mishnah, quando nella Yeshiva in Babilonia hanno studiato questa Mishnah, ha fatto venire in mente ai maestri un insegnamento di un maestro che si chiama Rav Yuda, che è successivo alla Mishnah, è un maestro della Gemara, è un Amorà, un maestro del Talmud, che ha fatto un'affermazione, ha insegnato un'alaha, e quando abbiamo studiato questa Mishnah ci ha fatto venire in mente questa alaha che ha insegnato Rav Yuda, e siamo rimasti perplessi, perché sembra che dalla nostra Mishnah non ha senso l'affermazione di Alaha che ha fatto Rav Yuda. Vediamo cosa ha detto Rav Yuda e come questo teoricamente non avrebbe più senso una volta abbiamo studiato la Mishnah che abbiamo appena studiato adesso. Vediamo un po'. Amar Rav Yuda Amar Shmuel, disse Rav Yuda a nome di Shmuel. Sono entrambi maestri della Gemara in Babilonia. Rav Yuda è la seconda generazione di Amoraim, maestri del Talmud in Babilonia, e Shemuel, a nome del quale lui riporta questa halakha, è della prima generazione dei maestri del Talmud in Babilonia. Lui stesso era uno dei più giovani allievi di Rabbi Yehuda Anassi, e cioè redattore della Mishnah. Ora, Rav Yuda dice a nome di Shemuel, Hamalve et chaveiro le eser shanim. Se qualcuno dovesse dare un prestito ad un altro per un periodo stipulato nel contratto di 10 anni, quindi ci ricorda quello che abbiamo detto alla Mishnah, per 10 anni, Shevit meshamate to, il settimo anno toglie il debito. Cosa vuol dire? Allora, noi sappiamo, è scritto nella Torah, che il settimo anno del ciclo degli anni sabbatici del Giubileo, 7 volte in 49 anni, noi abbiamo ogni volta che c'è il settimo anno la Shemitah. La Shemitah è l'anno sabbatico in Eretz Israel, in cui soprattutto è una questione dell'attività agricola, che la terra deve riposare. Non si può piantare, non si può fare niente con la terra per tutto questo anno. E questa è la parte principale del discorso della Shemitah, dell'anno Shevit, settimo anno. Nella Mishnah si chiama Shevit, il settimo anno. Ora, nella Torah c'è anche un'altra cosa che riguarda il settimo anno, e questo, secondo la maggior parte dei maestri, e non solo in Eretz Israele, ma anche fuori da Israele, è che se ci sono dei prestiti in corso, quando arriva l'anno sabbatico, Shevit, la Shemit, Tishmetena unetashta, questo riguarda la terra, e poi c'è scritto che Ashvi'it meshammetet, la Shevit toglie, annulla i debiti. I debiti devono essere pagati entro 7 anni, entro il settimo anno. Se non sono pagati, vengono annullati. Questo qua, se non ricordo male, era stato fatto, cioè uno stratagemma, praticamente veniva rimesso in bra... Sì, un attimo solo. Ok. Allora, la regola della Shemitah normale c'è scritto Vese devara Shemitah. Shemitah significa come sottrarre, togliere, annullare. Col bal masheya doa sher yashebereu, ognuno che è creditore e che chiede il pagamento al prossimo che gli deve i soldi, il prestito che gli deve, lo yigosetre eu vetachiv ki karash mitalashem, non potrà più richiedere. Yigos significa andare lì a dire riscuotere. Non potrà più richiedere di riscuotere nel momento in cui è arrivata la Shemitah, l'anno sabbatico, è annullato il prestito. Allora, Rav Yehuda dice a nome di Shmuel, se ipoteticamente uno dovesse fare un prestito per 10 anni, è chiaro che in mezzo ci sarà il settimo anno, no? Allora la domanda è, possiamo dire che visto che è stato stipulato dall'inizio che questo prestito durerà 10 anni, allora la Shemitah non toglie il debito, quando finisce la Shemitah riviene il debito e al terzo anno, dopo per esempio il settimo anno, sarà il decimo anno o quello che sarà, e dovrà pagare. Oppure diciamo, in mezzo c'è stata la Shemitah e quindi è stato annullato, anche se il contratto era stipulato per 10 anni, la Shemitah toglie. Rav Yehuda dice a nome di Shmuel, la Shemitah toglie questo debito, non esiste più, anche se è stato stipulato dall'inizio che è per 10 anni. Ora, questa è una novità. Perché è una novità? Perché il versetto nella Torah che dice che i prestiti saranno annullati a causa della Shemitah, dice anche, come ho citato prima, lo igos, non andare a riscuotere. Quando è che uno va a riscuotere? Quando arriva il tempo. Non va 3 anni prima o 5 anni prima o un mese prima. Quando arriva il tempo e non paga, allora va a riscuotere. Dice, scusa, è arrivato il tempo, dammi i soldi. E la Torah pone le due cose, una in qualche maniera legata all'altra, nello stesso versetto, che la Shemitah, che tu non vai a riscuotere perché la Shemitah ha tolto il debito. Significa che è arrivato il momento che tu vai a riscuotere, teoricamente. Nel caso dei 10 anni, che ancora non è arrivato il momento del riscuotere, forse la Shemitah non toglie questo debito, perché la Torah lega le due cose, il momento del riscuotere e l'annullamento del debito. Ma se non è arrivato il momento di riscuotere, forse non è annullato questo debito, solo quelli che già dovevi riscuotere non sono stati pagati vengono annullati, ma gli altri che avevano un termine più lungo, 10-20 anni, quello che è, come era l'esempio, forse non lo devi annullare, lo puoi sempre riscuotere quando arriverà il suo momento del riscuotamento. E Rav Yehuda dice no. Ve'af al gav, guardiamo il testo. Nonostante che in questo momento non rientra in quello che dice il versetto non andare a riscuotere, cioè non è arrivato il tempo ancora. Sof ateli dello igos. Visto che alla fine arriverà il momento dell'andare a riscuotere, e la Torah dice non andare a riscuotere, allora anche se sarà dopo 3 anni, dopo 4 anni, quello che è, comunque visto che alla fine ci arriva, perché in ogni debito alla fine ci arrivi, allora è annullato dalla Shemitah. Questa regola che ha detto Rav Yehuda a nome di Shmuel Ora mettiamola alla luce di quello che abbiamo studiato nella Mishnah e vediamo che sembra non avere senso quello che ha detto Rav Yehuda adesso a Naomi Shmuel. Perché? La Gemara lo pone proprio come contraddizione contro le parole di Rav Yehuda, che abbiamo appena detto, preso questa contraddizione dalla nostra Mishnah. Cosa ha detto la nostra Mishnah? La nostra Mishnah ha detto: tu devi fare la stima per vedere quanto devono pagare i testimoni falsi, di vedere la differenza, quanto una persona sarà disposta a pagare tra il momento in cui dovrà porsi la domanda se devo pagare entro 30 giorni o se devo pagare entro 10 anni, questa differenza qui dovranno pagare i Edim Zomemin, i testimoni falsi. Scusa, se entro 10 anni verrà annullato il debito, allora che stima fai? Se non esiste il debito entro 10 anni, secondo Rav Yehuda, significa che Rav Yehuda non ha ragione. Rav Yehuda non può contraddire una Mishnah. Attenzione, Rav Yehuda di nuovo è un Amorà, un maestro del Talmud, che non può assolutamente contraddire quello che è scritto nella Mishnah. Se cioè c'è una contraddizione tra ciò che dice la Mishnah e ciò che dice, quindi i Tanaim, i maestri della Mishnah, e gli Amoraim, i maestri della Gemara, viene rifiutata la posizione degli Amoraim. Allora guardiamo il testo come la Gemara pone la domanda. Matev Rav Kana, Rav Kana, che è sempre un maestro della Gemara, pone in risalto questo problema e dice: la Mishnah nostra, lui cita prima una riga della nostra Mishnah. La Mishnah ha detto: Omdim, si stima, Kama Adam Rotzeli ten viyu elef zuz biyado. Quanto una persona è pronta a pagare per avere in mano questi 1.000 zuz del prestito? Ben iten mikan va 30 yom, ben iten mikan va 10 shanim. E la differenza che sarebbe disposto a pagare per averli per solo 30 giorni o per averli per un periodo più lungo di 10 anni da poter restituire per su un periodo più lungo. Allora Rav Kana dice, avendo finito di citare questa riga della Mishnah, Rav Kana dice: Ve'i amrate, se tu Rav Yehuda mi dici a nome di Shmuel, Shevi'it meshamateto, che l'anno sabbatico viene e toglie, non esiste più il debito. Allora, kul huname ba'esh alumelei, gli Edim Zomemin avrebbero dovuto pagare 1.000 zuz come punizione. Perché se ha ragione il debitore che dice io devo pagare come stipulato nel contratto per un periodo di 10 anni, significa che arriverà l'anno della Shemitah e sarà cancellato il debito. Ma se loro dicono tu devi pagare entro 30 giorni, significa che lui perde 1.000 zuz. Allora voi pagate 1.000 zuz, perché devi fare questa stima? Se fosse come ha detto Rav Yehuda, a nome di Shmuel, paga tutti i 1.000 zuz, non è neanche una domanda, non devi fare nessuna stima, non devi chiamare nessun esperto per capire la differenza di mercato del valore di un prestito, la differenza di 10 anni o 30 giorni. Paga i 1.000 zuz perché lui non avrebbe pagato niente dalla sua tasca, visto che ci sarebbe in mezzo la Shemitah. Sarebbe stata annullata la Shemitah, secondo te? E allora perché la stima? Significa che non è così. Significa che non viene annullata questa transazione, questo prestito. Non puoi avere ragione perché la nostra Mishnah dice non si dà 1.000 zuz del danno, non sono 1.000 zuz di danno, è un danno diverso in base alla stima di quanto sarebbe pronto a dare per allungare il termine. Però il prestito stesso rimane, evidentemente si vede nella nostra Mishnah che rimane. Perché la Mishnah non dice tanto dopo 10 anni non c'è più. No. Ok? Allora, sembrerebbe che viene rifiutata la posizione di Rav Yehuda, però la Gemara prova a trovare una soluzione, a far rimanere valida anche la posizione di Rav Yehuda almeno in un determinato contesto. La Gemara condizionerà le parole di Rav Yehuda in una maniera che non sarà più una contraddizione dalla Mishnah. Vediamo. Amar Ravah, dice un altro grandissimo maestro della Gemara, Ravah, per difendere la posizione di Rav Yehuda, che abbiamo detto prima, e dice: guarda, la Mishnah sta parlando, non condiziona le parole di Rav Yehuda, condiziona le parole della Mishnah. La Mishnah sta parlando di un caso specifico. Là, in quel caso specifico, non sarà annullato il debito dopo 10 anni, ma in casi normali è giusto quello che ha detto Rav Yehuda, che viene sì annullato quando arriva la Shemitah. Di cosa sta parlando quindi la nostra Mishnah? Dobbiamo qualificare queste parole. Vediamo. Ha ha bemai askinan. Letteralmente significa qui, qui vuol dire nella nostra Mishnah. Di che cosa ci stiamo occupando? Cioè è un una domanda retorica, è un codice per dire qual è il vero contesto di cui si tratta qui nella Mishnah. È il seguente. Due possibilità. Uno, bemalve al hamashkon. Uno che fa un prestito, come si dice, mashkon, collaterale, un pegno, no? Eravon. Eravon, mashkon, un pegno. Cioè il prestito è ancorato da un pegno, ok? Questa è una possibilità, adesso vediamo che differenza fa. E la seconda possibilità, ubemoser shtarotav le beit din, colui che dà il proprio contratto o i propri contratti letteralmente di prestito al Bet Din. Cosa significa? Cosa stiamo dicendo? Ci vuole l'ifne. L'ifne Ashmita. Bidiok. Allora, Ravà adesso spiega e adesso approfondisco anche. Ditnan, abbiamo studiato in una Mishnah. In una Mishnah dove? Nel trattato proprio di Shevi'it. Esiste un trattato di Mishnah che non ha Talmud, solo Mishnah. Non ha Gemara, che si chiama Shevi'it, che è tutte le norme che riguardano l'anno sabbatico, Shevi'it. Nel ordine di Zeraim c'è il trattato Shevi'it, ok? E lì c'è scritto, Hamalve alla Mashkon, colui che fa un prestito non semplicemente dammi il denaro e c'è il contratto, ma c'è anche un pegno indicato. Oppure, Hamoser shtarotav le beit din, se tu prendi i tuoi documenti di prestiti, le carte che dimostrano i prestiti, e li dai in mano al Bet Din, li consegni al Bet Din, cioè il Bet Din diventa il garante, per così dire. Non sei più te, è il Bet Din. In questi due casi la Shemitah non annulla il prestito. En mashmitin, la Mishnah ha detto, ok? Il anno sabbatico, la Shemitah non annulla. Qui, che il prestito non è più un semplice prestito, ma è legato a qualcos'altro, ok? Quindi o il pegno o l'interessamento del Bet Din, il coinvolgimento del Bet Din, queste due cose fanno sì che il prestito sia ancorato a qualcosa che non viene levato nel momento in cui viene la Shemitah. E quindi questi sono praticamente dei metodi per assicurare che il prestito non sia perso nel corso dell'arrivo dell'anno sabbatico. Allora la Ravà dice, scusa, cosa volete dal povero Rav Yuda? Lui parlava di un caso normale dove dopo 10 anni si annulla il prestito. Ma la nostra Mishnah, che ha preso in considerazione i 10 anni senza prendere in considerazione la perdita del prestito, perché hanno detto la differenza, i testimoni la devono pagare, non devono pagare in 1000 tutto il prestito che avrebbero fatto perdere, perché non glielo avrebbero fatto perdere, perché? Perché la nostra Mishnah parla di uno di questi due casi, che o che è stato ancorato con un pegno, o è stato ancorato dando in mano al Bet Din la pratica, e in questa maniera la Shemitah non toglie il discorso del prestito. Cosa ne risulta? Che abbiamo risolto. Non c'è più contraddizione. Rav Yehuda parlava del caso normale, dove la Shemitah arriva e si cancella il debito, e quindi ha detto, anche se hai scritto tra 10 anni non fa niente, arriva la Shemitah e la cancella. E la nostra Mishnah parlava del caso non regolare, ma del caso indicato già nell'altra Mishnah dell'altro trattato di Shevi'it, dove ci sono due possibilità almeno che la Shemitah non tolga il debito. Ok? Ora, bisogna capire solo una cosa e con questo concludiamo. Cosa vuol dire dare il nostro documento, contratto di prestito al Bet Din, e questo fa sì che non ci sia più il debito, cioè non, che la Shemitah non tolga più il debito. Allora su questo discutono due massimi commentatori del Talmud, che è Rashi e Tosfot. Sulla pagina classica abbiamo da una parte Rashi e dall'altra i commenti dei Tosafisti, dei Tosafot, e loro discutono su questo punto qui. Cos'è la definizione di dare in mano le nostre carte del prestito, i contratti al Bet Din? Rashi dice, si tratta di una cosa molto semplice, che è un'istituzione dei Chachamim, Hillel. Il grande maestro Hillel fece un'istituzione che si chiama Prus Bull. Nel momento in cui gran parte dell'economia si basa sui prestiti, com'è possibile arrivare al settimo anno tutti i prestiti sono cancellati? Bisogna trovare una soluzione. Allora Hillel ha istituito il Prus Bull. Il Prus Bull è un contratto che ci aiuta a andare intorno, regolamentare per evitare che siano annullati i prestiti nell'anno sabbatico, ed è praticamente una dichiarazione che la persona fa nei confronti del Beit Din e dichiara che il prestito è fatto con praticamente l'espressa condizione che non sia annullata e che avrà la possibilità di riscuoterla anche se passa alla scemità. Ok? Questo dice Rashi. Quando la Mishnah ha detto che tu puoi, nel caso in cui tu dai il tuo contratto al Beit Din, diventa annullato il discorso, allora di questo stiamo parlando e la scemità non toglie. Tosafot dicono no, non di questo sta parlando la Mishnah. Perché? Perché i Tosafot citano un'altra Mishnah, sempre nel trattato di Shevi'it, quello che riguarda l'anno sabbatico, dove la Mishnah fa un elenco e nell'elenco compaiono due cose. Uno, il Prus Bull, che è questa formula che Rashi ha citato, e l'altro è chi dà il contratto al Beit Din. Quello che noi abbiamo citato nella Mishnah, quindi significa che sono due cose diverse. Secondo il Tosfot, il Prus Bull, che è un'istituzione rabbinica secondo tutti, non di questo sta parlando la Mishnah, sta parlando di chi dà, consegna i propri contratti di debito stessi, non che fa una dichiarazione oltre al contratto del debito come il Prus Bull, ma che il contratto stesso viene consegnato al Beit Din e sta in mano loro. Questo, secondo il Tosfot, non è un'istituzione rabbinica, è proprio Mideoraita, cioè dalla Torah stessa riconosciuto come un modo di non far annullare il debito. E quindi discutono Machloket, Rashi e Tosfot, sulla definizione di Moser Shtarotav le Beit Din, cioè chi dà il proprio contratto al Beit Din, se è una questione rabbinica di Prus Bull, come dice Rashi, o se è una questione biblica di Oraita, come dice Tosfot, secondo quello che si basa su un'altra Mishnah, appunto nel trattato di Shevi'it. E la differenza sarebbe? Misha salva adesso Shani. Azulot zach lasot Prus Bull. Lama? Chi uitna et alva adesso Shani. Azze atzmo ua Prus Bull. Atnai azze ua Prus Bull be'etzem. Aval hu tzarich le'atzir etze bifnei Beit Din. Lui deve fare una dichiarazione. Per il Prus Bull deve fare la dichiarazione. Anche se è già stipulato che il contratto dura 20 anni, per esempio, comunque lui deve stipulare al Beit Din, deve dichiarare io avrò la possibilità di riscuotere anche dopo che passa la Shemitah. Anche perché sennò sarebbe nullo il contratto teoricamente. Perché? Perché se io faccio un contratto che è contrario alla legge. Sì, sì, però non necessariamente è così. Cioè, no, dipende che tipo di legge, ci sono dei... No, rispetto a quello che avevamo detto adesso. Lo so, però ci sono delle problematiche contrattuali che possono far sì che il contratto sia nullo dalla partenza e altri invece che non lo annullano dalla partenza. E in questo caso non lo annulla, il fatto di dire la Shemitah. Sì. Ok, allora concludiamo qui e una buona giornata a tutti quanti.